Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto risalgono a qualche giorno fa, quindi non tengono del tutto conto degli ultimissimi sviluppi. Sicuramente in termini generali c'è un centrodestra che è favorito perché è la coalizione più ampia come sostegno elettorale e all'interno del centrodestra è Fratelli d'Italia che fa la parte del leone. Dall'altra parte un elemento che ancora non conosciamo è come si articoleranno le coalizioni. Una cosa particolarmente importante, visti i collegi uninominali che comunque assegnano circa un terzo dei seggi. La conformazione delle coalizioni, ad esempio quanto il centro-sinistra sarà largo, se i 5 Stelle andranno da soli o meno, potrebbe avere un grosso impatto poi sulle chance di avere o non avere una maggioranza autonoma in Parlamento dopo le elezioni. Inoltre, noi parliamo così sulla base di impressioni a oggi, ma se e quando si voterà tra 2 mesi, molto potrebbe cambiare, perché comunque ci sarà di mezzo una campagna elettorale, ci saranno di mezzo le parole, le scelte dei leader, e quindi non è detto che gli orientamenti che noi registriamo oggi siano poi quelli che vedremo a elezioni concluse. Certamente la crisi di governo rimescola un po' le carte perché comunque sarà uno dei temi, credo, di questa strana campagna elettorale d'agosto.